a cubetti, sottile sottile o tagliata spessa. La mortadella mi è sempre piaciuta, anche ignorando che già i romani ne facevano uso, pestando carne in un mortaio, da cui forse il nome, cuocendo a lungo l'impasto, aggiungendovi mirto per ingustirla, anche ignorando che invece altri studi storici ne fanno risalire l'invenzione a frati bolognesi a bagnomaria nel Medioevo, anche ignorando che la sua ricetta, insieme a quella dei pizzoni ripieni di salsiccia gialla e a quella dei ritortelli alla lombarda, è rinvenibile nel libro nuovo del famoso Cristoforo Messisburgo, o di Messiburgo, a seconda delle lezioni, cuoco alla corte degli Estensi nella Ferrara della metà del Cinquecento. Anche ignorando tutto ciò e chissà quant'altro, ho sempre ritenuto che una micchetta alla mortadella sia il massimo della vita, sia perché, allineando al gradino più basso della gerarchia socio-salumaica, costava poco, e sia perché, conteggiando i vantaggi e gli svantaggi etici insiti in ogni alimento dell'ideologia dominante, risultava a mio carico una teoria di peccati in definitiva abbastanza sopportabili. La vergogna di fronte al salumiere per lo stato del mio conto in banca, il senso di colpa per il trigliceride che penetrandomi mi possedeva, e fugacemente il sospetto per quel che, al di là della mortadella come categoria dello spirito, di bassamente empirico, di misteriosamente empirico, mangiavo. Grandi manifesti ora crescono sui muri di Milano. Vi campeggia l'immagine di una bella mortadella nel suo traslucido sacco, cui, come l'edera, sta avvinto un paio di manette. Non si fa in tempo ad immaginare l'irruzione delle forze dell'ordine in salumeria, perché a latere, in grande e non ignorabile, sta scritto: maiale dentro. Forse non le usavano i frati bolognesi del Medioevo, ma è certo, testimoniato con precisione nelle enciclopedie, che almeno nel Cinquecento varie forme di manette erano usate dalla polizia per tenere ben stretti assieme i polsi degli arrestati. L'anima benignamente pudica quanto maledettamente fedifraga della letteratura ce le ha tramandate al servizio del bene contro il male, ai polsi del reo e del refrattario, con la debita chiave nella tasca del giusto. Col tempo, con la necessità di variare le narrazioni, aggiornando al contempo il quadro ideologico, le parti si sono invertite e le manette sono finite ai polsi di innocenti che, tuttavia, dopo aver sputato buona parte del loro sangue, riuscivano a scucire la chiave dalla tasca del loro aguzzino. Nel 1984, in corda tesa, un film di Clint Eastwood, se non vado errato, l'orizzonte funzionale delle manette muta radicalmente. Vi si pretende lo scavo delle zone più buie dell'animo umano, finanche dell'animo di un giustiziere, e si scopre che le manette possono tornare utilissime per soddisfare pulsioni sessuali più e meno confessabili. Due anni dopo, in Qualcosa di travolgente di Jonathan Demme, mi sembra di rammentarne un uso spiccio e deciso da parte di una bionda, credo fosse Melanie Griffith, nei confronti del sorpreso maschietto di turno. Il tragitto delle trasgressioni in questo mondo di fulmini e comunicazioni è noto. Diciamo che nascono in un film vietato ai minori e in 4 e 48, metaforizzate o no, si diffondono a macchia d'olio. Oggi come oggi, mi immagino che un paio di manette a scopi sessuali, ben cercando fra paramenti o stensori, lo si possa reperire in qualsiasi sacrestia. Se no non si capirebbe la pubblicità. D'accordo, ci dicono che dentro la mortadella c'è carne di maiale. Ma è evidente che non ci dicono solo quello. Le manette alludono fin troppo chiaramente a quella notissima metaforizzazione del maiale in virtù della quale, uomini o donne che si sia, se col sesso ci si dà dentro, verremmo contrassegnati da una maialità interiore. Avevamo d'altronde inventato abbastanza di recente la bella dentro. E non possiamo stupirci se ora siamo saliti di un ulteriore gradino sulla scala delle prototipie del profondo. Niente è più come ci appare. E nello satirico passaggio da un presunto fuori ad un presunto dentro, i valori della personalità si ribaltano e così come oggi si può scoprire la bella dentro, anche perché presumibilmente sembra bruttina fuori, o il maiale dentro, anche perché presumibilmente sembra un santo stilita fuori, così domani si potrà scoprire un fascista dentro, in chi magari voterà a sinistra, o un comunista dentro, in chi magari voterà a destra. Quel che si attribuisce dentro, infatti, costa molto meno in termini di analisi e di fatica per farla condividere di quel che si trova fuori. Gli stigmi storici della mortadella, popolarità e relativa innocenza, cibo per classi sociali dalle mani magari callose ma non lorde di sangue, sono stati esorcizzati. Con un acume degno di migliori cause, innanzitutto ne hanno alzato il prezzo, fino a renderla, oserei dire, competitiva con tutti quegli altri salumi che ormai costano un occhio della testa. Poi l'hanno riprogrammata a più funzioni, modificandone la forma nel consumo, per esempio cubettandola, conferendole cioè l'infilzabilità. E infine l'hanno ricategorizzata nella peccaminosità sessuale affinché, almeno nei cassetti delle nostre menti, venga riposta insieme alla collezione di falli artificiali, vibratori, bambole gonfiabili, pasticche di Viagra, erettometri ed unguenti miracolosi. È così che dall'altro giorno devo aspettare un po' prima di avvicinarmi al banco di salumeria del mio supermercato. Aspetto che non ci sia gente, poi prendo coraggio, ci corro e tutto d'un fiato glielo dico: un etto di mortadella. E se quello mi dice che non ha capito, corro il rischio di arrossire.